Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Come sempre in questa puntata avremo anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi, la top 5 degli sprechi della pubblica amministrazione in senso lato. Avremo tutta la seconda ora dedicata invece all'incontro, che era quello più atteso come appuntamento economico, devo dire, della settimana, l'incontro tra il Presidente della Commissione Europea Juncker e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ve ne hanno già parlato i nostri GR24. Detto questo, l'incontro è andato bene, c'è chi parla di tregua armata, di pace temporanea, insomma è ovvio che l'obiettivo non fosse alzare ulteriormente i toni tra Bruxelles e Roma, che mai erano stati così tesi come nelle ultime settimane, ma ne parleremo ampiamente. Oggi, per quello che riguarda la giornata, invece, sul fronte borsistico, segnalo che siamo a un recupero che va a portare il fine settimana, per quello che riguarda l'indice FTSE MIB, ampiamente sopra i 17.000 punti, 17.500 punti, più 2,30%, Parigi più 1,80%, Francoforte più 2, Londra più 1,50%, il Dow Jones più 0,20, e in calo anche l'euro su dollaro, era risalito quando calavano molto le banche europee e anche italiane. Adesso siamo sotto quota 1,10 a 1,0920 sul dollaro. Tra i titoli oggi positivi non solo i bancari, ma anche e soprattutto Tenaris più 9, Fiat Chrysler più 6,30, Unipol più 6%, Eni più 5,87%. C'è un rialzo del prezzo del petrolio di quasi il 4%, che lo porta sopra anche i 33 a 34 dollari e mezzo al barile, ed è occasione per comprare titoli legati al petrolio. Exor però, come controllante del gruppo Fiat, guadagna il 5,30%, poi c'è il gruppo dei bancari più 4,60, Pop Milano più 4,20 Generali, e anche Saipem più 3,20, Buzzi Unicem, ma anche il 3% lo guadagna Finmeccanica. Chi perde oggi poca roba: Anima Holding meno 0,40, Monte dei Paschi lo 0,20%. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, visto che sarà tema della seconda ora, ma si è concluso, perché alle 4 poi il Presidente Juncker è andato in visita al Quirinale. Ascoltiamo i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, sull'incontro Renzi-Juncker. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Tra Italia e Commissione Europea sembra tornare un po' di sereno. Oggi Matteo Renzi e il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, si sono incontrati a Palazzo Chigi. Era un incontro molto atteso dopo le tensioni a tratti aspre delle scorse settimane. Come è andato il faccia a faccia e che cosa si sono detti i due leader, in particolare su quei 14 miliardi di flessibilità sui conti pubblici che tanto stanno facendo discutere Roma e Bruxelles? Renzi ha ribadito un principio importante, e cioè che l'Italia userà la flessibilità che le sarà concessa, il che sembra voler dire che non ci saranno forzature qualora l'Unione Europea dovesse chiedere una correzione sui conti pubblici, correzione che non necessariamente sarà chiesta e che in ogni caso dovrebbe essere molto molto contenuta. E ancora, Renzi ha confermato la prospettiva della riduzione del debito pubblico, come chiede l'Europa, ma non all'interno di un quadro di inutile rigore. Una visione molto simile è arrivata anche da Juncker, che ha detto come sia assolutamente corretto che l'Italia usi la flessibilità che viene concessa dalla Commissione europea, e ha aggiunto che in ambito finanziario i punti di vista del governo italiano e della Commissione UE non sono poi così lontani, perché la Commissione è consapevole che la flessibilità vada applicata con saggezza e non spinge assolutamente per un'austerità stupida e cieca. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, prima di arrivare alla classifica, un attimo ancora di pazienza, qualche altra notizia in breve di questa giornata economico-finanziaria. In America è stato rivisto a rialzo il PIL nel quarto trimestre, un dato sopra l'attesa degli analisti, buona come notizia, più 1%. Germania, i prezzi invece, l'inflazione c'è, nonostante quello che ha dichiarato due giorni fa, e ieri l'abbiamo anche un po' così, abbiamo ironizzato, il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, Weidmann, ha detto: non vedo il pericolo di deflazione. Bah, meno male che non lo vede lui. A febbraio i prezzi in Germania hanno fatto meno 0,2% rispetto a un anno prima, e le agenzie battono, c'è lo spettro della deflazione. Però Weidmann non lo vede, evidentemente lui abita in una zona della Germania dove a Francoforte, dove i prezzi continuano a salire, meno 0,2%. Faccio notare che a dicembre fecero più 0,4%. È la peggiore contrazione dei prezzi in Germania da oltre un anno. Il G20 invece, che si è tenuto a Shanghai, vede oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble dire no a un piano di stimoli fiscali da parte del G20, bisogna concentrarsi sulle riforme strutturali, e anche il numero uno del Fondo Monetario Christine Lagarde ha detto basta trucchi, i governi non devono inventarsi altri trucchi, ma devono portare avanti in modo deciso gli impegni sulle riforme che hanno preso. Nel frattempo, in tema di migranti, continuano le tensioni tra Grecia ed Austria. La Grecia ha rifiutato la visita del ministro austriaco in Grecia. C'era il ministro degli interni austriaco, che Joanna Mikl-Leitner, aveva chiesto di recarsi ad Atene per spiegare la posizione del suo paese, e il governo di Atene ha detto no grazie. Ricordo che ieri Atene ha richiamato in patria il proprio ambasciatore a Vienna, e molto seccata Atene per non essere stata convocata dall'incontro, in effetti è inspiegabile sta cosa, dell'incontro in tema di rotte e flussi migratori, anche perché sostanzialmente le autorità greche stimano che ci siano circa 25.000 migranti presenti attualmente in Grecia, pensate alle dimensioni del paese, più 2-3.000 nuovi arrivi al giorno, e non è ancora arrivata l'estate, dove sappiamo che gli sbarchi sono più facili per le condizioni meteo, le condizioni del mare. Praticamente le stime dell'OIM vedono 120.000 il numero di migranti arrivati in Grecia e in Italia nel 2016. In Grecia la soglia dei 100.000 è già stata raggiunta all'inizio di questa settimana, per cui da inizio anno al 24 febbraio la Grecia ha 111.000 persone sbarcate. In Italia da inizio anno sono sbarcate 9.000 persone, nei primi due mesi del 2015 erano state praticamente 1.200 in meno, 418 i migranti morti, 320 sulla rotta tra Turchia e Grecia, 97 nel Mediterraneo. Di fronte a queste cifre è chiaro che, lo dico, non è tema specifico di questo programma, però è chiaro che l'atteggiamento dell'Austria non ha senso, e parlo dell'Austria in questo caso, perché tu puoi chiudere le frontiere, e quando arriverà la decisione manderemo anche i giornalisti di Radio 24 a verificare cosa sta capitando nel traffico merci e in generale a quelle frontiere. Però tu lo puoi fare perché hai Brennero, perché hai Tarvisio, perché hai Passo Resia, ma la Grecia, che è tutta costa, cosa deve fare? Cioè, allora diteci subito se ognuno per sé e Dio per tutti in questa pseudo, diciamo, gestione europea dei flussi migratori. Manco inviti la Grecia, ma cosa devono dire questi? No, perché sempre pronti i paesi, anche l'Austria, a spiegarci come comportarci quando è facile per loro, no? Invece quando poi tocca a loro gestire un flusso migratorio che l'Italia nello specifico sta gestendo da anni con il disinteresse anche dell'Austria, e della Germania e dei paesi che adesso si ergono a baluardo della difesa europea, allora lì sono due pesi, due misure. Tutto qua. Poi la Commissione europea ha richiamato l'Austria, non è d'accordo con l'Austria. Benissimo, vedremo cosa capiterà. O qua è importante solo il decimale di deficit per avere le sanzioni. Comunque andiamo avanti con le altre notizie. Sì, Juncker ha parlato anche di questo. C'è il rapporto dell'Unione Europea sui vari paesi, ne parleremo nella seconda ora. Il rapporto che fotografa le, sostanzialmente gli squilibri macroeconomici. Dico subito che nel caso dell'Italia, come già anticipato nei giorni scorsi, i principali squilibri economici riguardano il debito. Viene fatto un plauso alle riforme scuola, lavoro e anche bancaria. Mancano riforme della spending review e anche la capacità di competere del paese. L'elemento di forte vulnerabilità per l'Italia però è il suo debito e una competitività e una crescita deboli, dove pesano le sofferenze bancarie. Poi torna la Commissione europea sull'IMU, come già abbiamo modo di anticipare. L'Europa, il Consiglio, è contraria all'eliminazione dell'IMU, vuole che le tasse si spostino dalle persone, dagli elementi produttivi, quindi i lavoratori e i datori di lavoro, a elementi non produttivi, quindi consumi, IVA e casa, IMU. Questa è la linea europea che ha ripetuto mille volte, poi non può essere d'accordo, no, ma è la linea europea. Visto che parlavamo di investimenti, oggi il Presidente del Consiglio, però da all'inaugurazione dello stabilimento Laika di San Casciano Val di Pesa, dopo aver ricordato che la Laika comunque è a capitale tedesco, ha detto che gli investimenti in Italia sono cresciuti da 12 a 74 miliardi in due anni. I numeri degli investimenti stranieri in Italia sono cresciuti molto. Tra il 2013 e il 2015 noi siamo passati in Italia da 12 miliardi di investimenti stranieri, anno 2013, dove le cose non sono andate granché bene, a 74 miliardi lo scorso anno. Da 12 a 74 miliardi, è una svolta. In alcuni casi, come per Laika, con il controllo in mano a degli investimenti stranieri, nei due terzi con partecipazione di minoranza. E poi la manovra fiscale sulle imprese, che non c'è stata per quello che riguarda chiaramente la possibilità, il 40% sugli ammortamenti, ci mancherebbe, però come pressione fiscale sulle imprese e sui lavoratori il governo ha detto la faremo nel 2016. Renzi ha detto le PMI vanno, le piccole e medie imprese vanno aiutate, semplificando e incoraggiando a ridurre la pressione fiscale. Però faccio notare che la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione burocratica per le imprese, oltre che per i cittadini, è ancora là da venire. L'abbiamo chiamata la Bassanini per le imprese. Fatele, semplificate la burocrazia. Ci vogliono 6 mesi in Spagna per un capannone, 3 anni e mezzo in Italia. La Spagna, non sto parlando della Svezia, ok? Allora, su questo tutto ancora di là da venire. Comunque, dice Renzi, aiuteremo i distretti anche riducendo le tasse. È importante la grande industria, è fondamentale, ma dovunque si giri ti dicono, parlo a livello mondiale, ti dicono ma che bello il sistema delle piccole e medie aziende che l'Italia ha. Noi abbiamo un sacco di straordinarie belle aziende che hanno qualità da vendere e accanto a questo però deve essere dato un messaggio. Questo sistema, che poi è fatto in alcuni casi di distretti, in alcuni casi di filiere, va non soltanto preservato, ma va incoraggiato. Però il punto chiave è che le piccole e medie imprese vanno aiutate, semplificando, incoraggiando a ridurre la pressione fiscale. Questo è un fatto fondamentale. Poi quello non vuole che si elimini l'IMU, quello non vuole che si abbassi il costo del lavoro, quello c'ha da ridire sugli 80 euro. Però alla fine c'è una novità, che negli ultimi 2 anni in Italia le tasse hanno iniziato ad andare giù. La classifica della settimana. Allora, la classifica della settimana oggi vede al quinto posto, ci vuole un po' di, c'è una canzone che ci vuole un fisico bestiale, no, non ci vuole un fisico bestiale, ci vuole un po' di, così, di volontà interna per riuscire a leggere questa classifica ogni settimana. Comunque, al quinto posto, come riusciamo a sfruttare il famoso oro, il petrolio dell'Italia, l'oro italiano, i giacimenti culturali? Tutti si riempiono la bocca, ma il paese di questo non riesce a riempirsi le tasche, nel senso che a Siracusa, due cerotti e un foglio scritto appena. Siracusa è una città bellissima, con un patrimonio, per chi non la conoscete, bellissimo, archeologico, il teatro, Ortigia, dai greci e romani, una cosa che all'estero farebbero il diavolo a quattro. Comunque, due cerotti e un foglio scritto appena attaccato sopra il cartello con gli orari di apertura del Museo Archeologico Regionale di Siracusa Paolo Orsi, chiuso per mancanza di personale. Tutto normale, no? In un'area dove la disoccupazione giovanile tocca il 42%, quella disoccupazione in media è superiore al 24%, dove la regione Sicilia ha 13.000 dipendenti assunti, tutto normale che non si trovino dei dipendenti, anche distaccandoli per carità, per il Museo Archeologico Regionale, chiuso per mancanza di personale. Sembra di essere, non so, in California, dove... Allora, tre settimane fa è successo, è scoppiata la polemica, alcuni deputati regionali hanno detto attenzione, ma come cavolo è possibile, dovrebbe essere il nostro cavallo di battaglia l'archeologia e i siti archeologico-artistici. Ma infatti, dopo questa grande mobilitazione di alcuni deputati regionali, Vincenzo Vinciullo del Nuovo Centrodestra, e che ha aggiunto l'assessore, mi ha assicurato che predisporrà gli atti necessari per un'ispezione e poi si prenderanno provvedimenti nei confronti degli autori di un gesto così inopportuno. Bene, Vinciullo, abbiamo risolto il problema del Museo Archeologico regionale di Siracusa. Ma figurati, dopo il Museo Archeologico, infatti, dopo questa presa di posizione, l'effetto è che tocca anche al Castello Eurialo e all'Anfiteatro Romano. Dettaglio, un anfiteatro bellissimo, restano chiusi per mancanza di custodi. Si sono arrabbiati i turisti, le guide, il tour operator, gli addetti ai lavori, hanno dovuto disdire prenotazioni e tour, ma tutto normale, no? La sovrintendente beni culturali Rosalba Panvini ammette le difficoltà a mantenere aperti i monumenti per mancanza di personale, ma pensate che quelli che sono aperti per modo di dire, cioè il castello Maniace di Ortigia, che è il centro storico, l'isolotto, diciamo, penisola di Siracusa, bellissimo, il castello Maniace chiude alle 14, nel senso che devi anche organizzare bene. Il ginnasio romano e il tempio di Zeus restano sempre chiusi, così non ci sbagliamo, non creiamo disorientamento nei turisti, nei tour operator. Si riesce a assicurare solo la custodia del teatro greco fino alle 18 attraverso due turni da 13 custodi. Ma pensate che c'è pure il museo della ceramica, inaugurato nella nuova sede ristrutturata del foro Vittorio Emanuele II di Ortigia, inaugurato e quando l'hanno chiuso il giorno dopo, sempre per essere, diciamo, coerenti. Complimenti. Andiamo al quarto posto e volutamente restiamo in Sicilia, perché mentre non si riescono a trovare i custodi in una terra con quei tassi di disoccupazione, ok, e con quel numero di dipendenti pubblici regionali, ma non solo, beh, in compenso la mitica Assemblea Regionale Siciliana, che è a tutti gli effetti funziona come un Parlamento, perché la Sicilia è una regione autonoma, purtroppo, lì il presidente con cui avevamo uno scontro pesantissimo dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, ha deciso di aumentare la busta paga dei medici, e fin qua dice, beh, medici no, solo dei medici che lavorano al Palazzo di Normanni, nel Parlamento siciliano, sono due medici, guadagneranno a testa 170.000 euro lordi l'anno, una cifra che è la somma di un'indennità di oltre 104.000 euro e di un compenso aggiuntivo, un extra, legato alla funzione. Io voglio capire perché un medico che cura o deve curare i consiglieri regionali, spesso fancazzisti, della regione Sicilia, deve guadagnare 63.000 euro di indennità, e lo stesso medico, se va a lavorare allo ZEN, zona espansione nord di Palermo, un quartiere che, te lo raccomando, non deve avere nessuna indennità. No, 63.000 euro per stare a Palazzo dei Normanni. Un compenso aumentato, grazie a Ardizzone, di 5.000 euro rispetto all'anno precedente e raddoppiato rispetto al 2014. Quindi non è una cosa di oggi, continua. Complimenti, non hanno nessuna, diciamo, colpa né merito, chiaramente, i due dottori Augusto D'Ancona e Francesco Mangiameli, perché per beccare una retribuzione di 8.000 euro netti al mese. Faccio notare che i medici del Sistema Sanitario Nazionale a Palermo e in Sicilia non la vedono neanche una cifra del genere. Nessuno dei 3.000 colleghi che dipendono dalla SP può godere dello stesso tipo di trattamento. Non so, il responsabile, quindi il primario responsabile della rianimazione dell'ospedale civico, il primario responsabile, un ruolo importante, rianimazione, Pier Giorgio Fabbri, guadagna 117.000 euro lordi l'anno, cioè siamo a 60.000 euro lordi in meno, appunto, l'indennità, e fa pure il primario, cioè è il responsabile, deve dirigere un reparto. Agostino Geraci, direttore del pronto soccorso dell'ospedale civico, pure lì, sai che responsabilità, lo dico in maniera molto seria, ha 100.000 accessi l'anno, guadagna 102.000 euro, quasi, diciamo, un euro d'accesso, ma non è così. Perfino i manager degli ospedali si fermano a 130.000 euro. Per cui, voi, giustamente, il medico che deve curare i deputati dell'Assemblea regionale guadagna 65.000 euro del primario che deve dirigere il pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. Tutto normale. Complimenti a Dizzone, visto che è lei che ha aumentato, con un decreto del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ha aumentato lo stipendio anche quest'anno. E poi c'è il mitico deputato questore dell'Assemblea regionale siciliana, Paolo Ruggirello, dice: è allo studio una soluzione più economica, ma va, studiate bene, perché è difficile. Dategli lo stesso stipendio degli altri medici, fate un'inversione per i medici che vanno nelle zone più a rischio di Palermo, diamo l'indennità. Ma precisa, questo è un mito, quella struttura è utile, e te credo, è utile ai deputati e a chi lavora all'Assemblea regionale siciliana. Così non vai neanche in ospedale la maggior parte delle volte, non devi fare la fila, non hai tutte le rotture di palle che hanno i normali cittadini. Lavora anche nelle ore serali, ho capito? Quando però ci sono sedute d'aula o di commissione, pensa che sacrificio, ed è a disposizione pure dei turisti della Cappella Palatina. Sì, ho capito, nel senso che se sta male un turista alla Cappella Palatina, c'è il medico, che però, a meno che non sia nel turno serale, perché c'è la... Cioè, quando deve star male il turista della Cappella Palatina, no? Dopodiché, in un paese normale, tu li paghi normalmente, e se un turista sta male alla Cappella Palatina, come se sta male al Duomo, alla Cattedrale di Palermo, arriva l'ambulanza e lo porta in ospedale, all'ospedale civico, dove invece il medico è pagato 60.000 euro l'anno in meno, perché non deve curare i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. E poi mi chiedete perché sono contro le autonomie tutte, e in particolare l'autonomia della Regione Sicilia? Andiamo avanti al terzo posto, anzi il terzo posto lo facciamo dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, al terzo posto. No, vedo che molti scrivono ancora su Siracusa, con tutti i forestali che ha la Sicilia. Adesso daremo un esempio, nel caso virtuoso che portiamo ogni settimana, dell'imprenditore che ha rimboccato le maniche durante questi anni di crisi, daremo un esempio di come si possa anche gestire il turismo, un esempio diverso, guadagnandoci. Ma andiamo avanti, risaliamo la penisola, andiamo in Calabria. Qui la vicenda, oltre che, diciamo, sull'elemento economico, è proprio sul costume. Allora, praticamente la regione Calabria, in regione Calabria, per essere assunti come giornalisti si può anche essere assunti senza concorso, ma nessuno aveva capito che non servisse nemmeno una selezione pubblica, basta una nomina ad personam. Allora, perché lo dico? Perché viene lanciato alla regione Calabria, hanno messo a punto un piano editoriale abbastanza singolare, lo dico da giornalista, in questo caso parliamo di un settore che un po' conosco, perché è formato da un solo giornalista che sta in una redazione che non esiste, cioè è capo di se stesso, l'abbiamo già vista sta cosa, perché la redazione è composta da una segreteria di redazione che deve creare, e il giornalista, che deve creare e confezionare i contenuti del magazine Calabria On Web, il portale di notizie istituzionali, perché mai che tu fai il portale per conoscere il tuo reach, già, mi dice, cioè già, però questo è un portale che serve solo per dare le notizie istituzionali della regione, nato nel 2011 sulle ceneri della mitica, che tutti rimpiangiamo, rivista cartacea, chi non ne ha una copia a casa, Calabria. L'occasione è buona anche per sdoganare una figura posta nel direttore politico, cioè il segretario questore del Consiglio regionale sarà anche il direttore politico, vabbò. Ma detto questo, viene definito l'assetto del giornale online il 12 ottobre. Poi però il 3 novembre lo stesso Neri, Giuseppe Neri, il segretario questore del Consiglio, comunica al segretario generale Maurizio Priolo l'esatta composizione della segreteria. Un responsabile amministrativo, un operatore informatico, entrambi dipendenti interni, un giornalista pubblicista da prendere all'esterno, che è già individuato nel nome e nel cognome. È una cosa un po' strana questa. Si chiama Gabriele Scopelliti, sarà Francesco Gabriele Scopelliti, sarà bravissimo, ma è un po' strano, voglio lui. E poi perché un pubblicista e non un giornalista professionista? C'è una leggera differenza, anche perché ci sono i giornalisti professionisti disoccupati su cui almeno un ente pubblico dovrebbe rivolgersi. E perché proprio Scopelliti? Nessuna risposta su questo. Il segretario generale Priolo emana un atto con il quale recepisce l'indicazione del direttore politico, ma qua sembra di parlare della Russia di Stalin. Comunque stabilisce pure il compenso, 19.000 euro annui, non è tantissimo, nel senso, il problema non è quanti sono, è perché a lui. La nuova squadra è quindi pronta a partire per fare Calabria on web, e invece no, perché i revisori dei conti del Consiglio regionale esprimono le riserve in relazione alla nomina di Scopelliti, la richiesta ufficiale di differire l'esecuzione del provvedimento amministrativo al definitivo esame da parte del collegio. E quindi tutto si blocca e tutto si ferma, e quindi Calabria on web deve aspettare. Non cercatela, non inondate di visite Calabria on web, perché ancora non è operativa. Allora andiamo al secondo posto, perché il secondo posto ci porta a Roma, ma non a Roma, ci porta al Vaticano. Lo dico, come sempre precisiamo, il Vaticano è una nazione indipendente, fa quello che vuole dei suoi soldi. È giusto però che, visto che c'è un miliardo che arriva con 8 per mille, c'è tutta la polemica sul fondo residuale che viene dato, cioè chi non decide dove dare l'8 per mille, sono soldi anche e soprattutto dei cittadini italiani. Lo dico perché immagino che Papa Francesco domani farà un incontro con, già oggi iniziata la prima giornata di lavori, con oltre 7.000 imprenditori, con tutti gli imprenditori e Confindustria, un incontro importantissimo. Abbiamo, inutile elogiare in questo programma Papa Francesco, ognuno la pensi come vuole, però mi sembra che quello che sto per leggere non sia esattamente nello stile di sobrietà che il Papa cerca di immettere, inserire, innestare nel Vaticano. Perché? Non parliamo del Cardinal Bertone e del suo superattico, parliamo dei prelati statunitensi in servizio presso la Santa Sede. Sono tutti residenti in una villa del quartiere Aurelio, che alcuni forse ricorderanno, si chiama Villa Strich. Perché lo ricorderanno? Perché fu fondata e occupata soprattutto a metà degli anni 60 da Marcinkus, che era allora prete di Chicago, poi la guida dello IOR, poi coinvolto nello scandalo IOR-Vaticano-Marcinkus. Il direttore della residenza, Monsignor Thomas Fucinaro, immagino americano di origine italiana, immagino, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 3 anni fa decide di procedere ad alcune opere di ammodernamento e abbellimento e commissiona un appalto da 600.000 euro. Dice, vabbè, ci saranno stati dei lavori di muratura importantissimi, bisogna mettere in sicurezza l'edificio nell'ottica sobria, diciamo, che accompagna appunto questa visione della Chiesa, che in particolare ha Papa Francesco. Beh, insomma, Fucinaro nel corso dei lavori riesce a spendere solo per il salone di rappresentanza, io ho capito, ma che deve rappresentare? Sono 180 metri quadri, circa 350.000 euro. Poi mette un impianto professionale di distribuzione di bevande alla spina a 5 vie, ma che è un bar? È vero che sono americani, che hanno le bibite gassose, 3 di birra, 1 di Coca-Cola, 1 di gazzosa, 10.000 euro per l'impianto professionale di distribuzione di bevande alla spina. Poi c'è un caminetto ultra tecnologico che può funzionare sia a gas sia a legna ed è anche in assenza di canna fumaria, costa 30.000 euro per un caminetto. Poi sempre 30.000 euro per i marmi scelti per il pavimento del salone, provenienti dalla Sicilia, però una volta posati sono stati ritenuti troppo opachi e la soluzione, hanno aggiunto una speciale resina, altre 18.000 euro. Ma che? Ma qui è il Salone del Mobile, non è il Vaticano questo, ma sono tutti esperti in design. Io manco lo sapevo che se hai il marmo opaco basta aggiungere la resina a 18.000 euro. Il portoncino del salone, replica esatta di un portoncino di cui Monsignor Fucinaro si era innamorato in uno dei suoi viaggi europei, realizzato a mano e costato 7.000 euro. Non ci si innamora dei portoncini quando si è Monsignor Fucinaro, ci si innamora solo di una persona, Dio. E poi 7.000 euro per gli stucchi e controsoffitti, 2.000 euro per le placche degli interruttori elettrici del salone, ma come cavolo queste placche? E 40.000 euro per i rivestimenti in legno. Adesso, grazie a Papa Francesco, sembra che si voglia procedere a un minimo di spending review. Non ho capito cosa fanno a questo punto. Fucinaro è stato messo sotto pressione dagli Stati Uniti e dal Vaticano. Ha sospeso i pagamenti alle ditte. 80.000 euro mancano da pagare, che chiaramente avendo già fatto i lavori vanno per decreti ingiuntivi. E auguri. Ma il portoncino di cui ti sei innamorato in uno dei viaggi, uno perché si deve innamorare di un portoncino? Cosa fa? Ci sbatte contro per innamorarci di un portoncino. Vabbè, al primo posto, però vogliamo essere ecumenici, è il caso di dirlo, la Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana si becca oggi, l'Italia nel suo complesso, la abbracciamo tutta, si becca oggi il primo posto della classifica dopo il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. And the winner is... La Repubblica Italiana, la grande incompiuta, la terra delle opere incompiute. Allora, nel 2014 sono passate a 868, 176 in più rispetto al 2013, con uno spreco complessivo per le casse dello Stato, cioè nostre, di 4 miliardi di euro. Non è tanto, boh, insomma sono 166 euro a famiglia, magari uno si mangiava un po' di pizze, andava a qualche cinema in più, ma soprattutto io penso che molte famiglie li darebbero volentieri 166 euro pur di avere le opere compiute, non dei mostri inqualificabili. Ma la cosa più grave è che mancano ancora 1 miliardo e 400 milioni per completarle, quindi non è mica finita qua. Allora, il record negativo, io oggi sembra una puntata contro la Sicilia, che è una terra che io adoro, ma è così. Il record negativo spetta la Sicilia, che vede sul suo territorio 215 opere incompiute, a momenti sono più dei templi. Il valore assoluto massimo, anche se il fatto che siano aumentate molto le opere incompiute in Sicilia è dovuto al fatto che l'anno prima la regione non aveva comunicato il numero, quindi è improvvisamente esploso. Segue l'Abruzzo, da 33 opere incompiute a 40 nel 2014. La Calabria peggiora la sua situazione, da 64 opere incompiute a 93. In Lombardia le opere non terminate sono passate da 19 a 35. In Puglia da 59 nel 2013 a 81 nel 2014. E comunque campione del campione del record assoluto dello spreco va comunque alla Città dello Sport di Tor Vergata a Roma, costata finora 607.000 euro. Andate a vederla se non avete di meglio da fare. Quello che resta è lo scheletro della vela di Calatrava, che a questo punto è una specie di, lo dico con rispetto per Calatrava, insomma rispetto Ponte di Venezia, ho poco rispetto per Calatrava, però detto questo andrebbe abbattuto perché è uno scheletro ignobile da guardare. Comunque già spesi 600.000 per una città dello sport, Tor Vergata, che ovviamente non serviva, non serve lo sport in questo paese, siamo già tutti campioni. Allora, Andrea De Caro, portavoce dei giovani urbanisti della Fondazione Labò, che non è un movimento politico, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, racconti lei ai siracusani e ai siciliani come si fa a valorizzare, voi in realtà avete valorizzato la lanterna di Genova, nel senso che sì, non è nemmeno paragonabile, lo dico con massimo rispetto per i genovesi, per la lanterna, al Tempio Romano di Siracusa e a quanto raccontavamo prima, però Lei che nelle lanterne ci è cresciuto, nel senso che nei fari, certo. È cresciuto nel faro di Marina di Ravenna, perché papà lavorava, se ho ben capito, in Marina. Esatto. E che cosa avete trovato nella lanterna di Genova, che è un faro comunque del 1543, il simbolo di Genova, rischiava di chiudere, di essere abbandonato, e voi cosa avete fatto? Allora, dunque, quello che rischiava di chiudere appunto era tutto il contesto culturale, quindi il museo, certo, il parco, la passeggiata, poi ovviamente il faro essendo attivo fortunatamente è mantenuto dalla Marina Militare, quindi quello sarebbe rimasto. Vabbè, certo. Certamente quello. Cos'è accaduto? Ovviamente con la spending review le province hanno avuto tagli sempre più consistenti, fino a quando poi non era più in condizioni da poter mantenere aperto il sito, proprio perché la provincia, dalle colombiane più o meno, soprattutto dal 2001 che ha realizzato la passeggiata, è riuscita a recuperare il sito che altrimenti fino al 2001 appunto era inaccessibile al pubblico. Mm-hmm. Luglio 2014 la notizia appunto che avrebbe chiuso, io essendo qui, avendolo seguito fin da piccolo e avendo già costituito il gruppo dei giovani urbanisti appunto all'interno della mm-hmm. Fondazione Lavò, eravamo già un po' impegnati in azioni di recupero, sempre appunto autorizzate dalla provincia, poi che ci ha appunto ringraziato dicendoci però poi chiuderemo. Allora abbiamo proposto alla provincia, al comune, al municipio di accogliere l'adozione almeno per il periodo appunto che poi dura ancora oggi, fino a quando non si sarebbe trovata una quadra per poter poi trovare una soluzione al mantenimento e alla fruibilità del complesso monumentale. Quindi per adesso, diciamo, come volontari appunto stiamo gestendo tutto quello che appunto parco, museo e passeggiata, vivendo appunto di sponsor o degli ingressi del museo per riuscire ad adempiere alle manutenzioni necessarie, ovviamente per renderlo sia agibile sia nel decoro, ecco. E quella è la parte più difficile, perché comunque, pur essendo il simbolo della città, abbiamo ereditato una situazione in cui bisogna lavorare innanzitutto per farlo conoscere, quindi si è lanciato appunto da una promozione sui social piuttosto che dedicargli finalmente, certo, un sito internet, grazie agli amici della Lanterna che poi abbiamo costituito proprio per permettere a tutta la città di e si riesce anche a guadagnare. Devo fare una certo correzione. Purtroppo adesso non so se ho detto 600.000, il costo della università, della città dello sport di Tor Vergata è di 607 milioni di euro, non magari 600.000 euro. No, 607 milioni, chiedo scusa agli ascoltatori che mi stanno correggendo, è 607 milioni di euro per un'incompiuta che dovrebbe solo lo scheletro della vela di Calatrava. Ok, allora siete riusciti a guadagnare da questa cosa o no? Perché poi, no, assolutamente non c'è. Però 100.000 euro di incassi li avete fatti in due anni, no, ma di cui in realtà molti meno. Nel senso, 100.000 euro era, diciamo, provando a quantificare le ore lavoro che non sono state pagate, quanto di sponsor ci hanno dato in servizi. Quindi quello lì è l'idea. E quanto ci avete meno messo voi? 80.000, diceva? Allora, dunque, noi ci abbiamo messo sui effettivi degli incassi, saremo sui 60.000 euro, una cosa del genere, fra i due anni, stiamo parlando, cioè nel senso fino ad oggi, più quanto hanno messo gli sponsor, nel senso che chi ci ha donato il videosorveglianza, chi ci ha scontato l'antincendio, chi non ci fa pagare magari la manodopera ma solo i materiali acquistati, via dicendo. Però se noi dovessimo quantificare tutto quello che è stata la prestazione e via dicendo, siamo su quelle cifre lì, e non solo, cioè ci sarebbe ancora da fare molto ma di più, perché non siamo riusciti ad arrivare a un punto zero. Allora io vi auguro in bocca al lupo. Una volta tanto abbiamo voluto volutamente portare, non li portiamo sempre, società, le start-up, come si chiamano in gergo, che già fatturano, hanno previsto di fatturato così, ma anche chi da un punto di vista economico, no, raccogliendo i soldi, mettendo un biglietto, i visitatori sono raddoppiati da 4.000 8.000, facendosi aiutare, riesce a gestire perfino la lanterna di Genova. Penso che possa essere, diamo il suo numero a Siracusa, se vuole, al sovrintendente, come si può fare qualcosa anche lì, intanto certo, assumendo qualche custode che mai non fa, e magari spostando dai forestali, fate fare i custodi, insomma il lavoro è scarso e quindi non si adegua, ma dall'altro anche per valorizzare, e spendendo meno, e valorizzare un patrimonio culturale. Grazie e in bocca al lupo veramente a Andrea De Caro e a tutti i giovani urbanisti della Fondazione Labò. Se volete, Regione Sicilia, Comune di Siracusa, Sovrintendente di Siracusa, vi diamo il numero quando volete, basta chiamare a Radio 24. Allora, borsa, che poi abbiamo un'ampia pagina su Juncker, Renzi, sui temi europei. Andrea Fontana, andiamo rapidi, buonasera. Buonasera. Che succede di positivo a Fiat? Il titolo oggi ha guadagnato, ha un po' ritracciato alla fine, però eccolo qua, Fiat Chrysler più 5,80%, Exor più 5%, CNH più 2,60%, Eni molto bene, ha confermato il dividendo pur pesando il crollo dei prezzi del petrolio, è chiuso con un rosso da 8 miliardi 820 milioni. Però il risultato adjusted è diverso, è positivo per 0,34 miliardi, però pesa il prezzo del petrolio a 30-35 dollari per l'Eni, conferma dividendo 80 centesimi, oggi il petrolio si è ripreso un po', è a 34 dollari, l'Eni guadagna il 5%, Fiat invece. Fiat ha sfruttato la speculazione, su un ritorno della speculazione su possibili aggregazioni. È un paio di giorni che sul tavolo è tornata la discussione per quanto riguarda ipotesi di consolidamento con Peugeot, ecco perché Fiat è ancora una volta la migliore di un settore auto molto vivace. Nel listino tedesco Volkswagen ha guadagnato quasi il 5%, BMW il 3,5%, Daimler il 3%, e poi si sono ben comportati anche altri titoli della galassia, diciamo Fiat Agnelli. Exor è tra i migliori titoli della settimana, oggi ha guadagnato ancora il 5%, CNH Industrial, anche perché aveva annunciato l'inizio di un piano di acquisto di azioni proprie, ha guadagnato un altro 2,6%, e poi protagonisti, come tu ricordavi, soprattutto i titoli dell'industria petrolifera, Tenaris, Eni e Saipem. E poi appunto tornare alla città, il fronte delle banche oggi, beh, la fusione Banco Popolare e BPM è vicina, senza aumento di capitale, comunque Pop Milano più 4,81%, Banco Popolare più 2,88%, bene anche Generali più 4,40%, Saipem recupera qualcosa più 4,30%, Buzzi Unicem più 3,40%, Azimut più 2,60%, come CNH e TOZ e Mediobanca, e anche ST Microelectronics più 2,60%, Unipolsai più 2,20% come Mediaset. Fronte opposto c'è Campari meno 0,70%, anche qui i conti, Monte dei Paschi meno 0,70%, Atlantia meno 0,60%, Anima Holding meno 0,40%, migliori e peggiori in assoluto della seduta. Risanamento più 17%, Edes più 14%, Class più 10% e Geox più 10%, fronte opposto Prelios meno 5,20%, Invest meno 4,10%, Biofarma meno 3,80%. Grazie Andrea Fontana, a tutti i colleghi di Radio Cuore di Sole 24 Ore, buona settimana a voi. Adesso GR24, poi parliamo dell'incontro Juncker Renzi, ma anche in primo luogo dell'analisi, delle raccomandazioni arrivate dall'analisi sugli squilibri macroeconomici che l'Europa ha fatto a ogni paese, tra cui l'Italia. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Focus Economia. Con Focus Economia. Allora, come annunciato, il tema grosso della giornata economico-finanziaria è il faccia a faccia tra Roma e Bruxelles. Il tanto atteso faccia a faccia, è arrivato un documento di cui abbiamo parlato già lunedì, il documento italiano sulle proposte italiane, da noi giudicato anche abbastanza morbido e conciliante. Nel frattempo però sono arrivate da parte europea invece per tutti i paesi, non solo per l'Italia, i documenti che come ogni anno vanno a fotografare gli squilibri macroeconomici. All'Italia, lo dico subito, si riconoscono i progressi fatti in molti settori, ma l'indice, il dito è puntato soprattutto sull'alto debito, la bassa competitività e la fragilità del sistema bancario. Poi c'è il nodo flessibilità sul deficit, i margini di flessibilità. Questo non viene affrontato dal documento di oggi, perché sarà sciolto solo a maggio. E poi altre questioni aperte, penso alla procedura di infrazione sull'ILVA, le concessioni balneari di cui abbiamo parlato ieri, in cui l'avvocato della Corte di Giustizia Europea nella sua relazione ha dato torto all'Italia sulla proroga delle concessioni balneari, e anche le multe salate che l'Italia paga per la violazione delle norme ambientali. Questo era, diciamo, un documento cornice sugli squilibri più evidenti, appunto chiamati macroeconomici, e sottolinea, ripeto, qualche progresso compiuto dall'Italia in seguito alle raccomandazioni specifiche arrivate nel 2015, riforma del mercato del lavoro, riforma della scuola, le misure importanti definite così per le banche, e dice però ci sono in alcuni settori fondamentali margini per ulteriori interventi, la spending review, quindi la revisione e riduzione della spesa pubblica, la tassazione sulla prima casa, l'Europa è contraria a aver eliminato l'IMU, il catasto da riformare, la contrattazione collettiva, i termini di prescrizione e il fisco. Nel caso specifico dell'IMU, lo dice esplicitamente la Commissione Europea, l'abolizione dell'imposta sulla prima casa a partire dal 2016 non è in linea con le reiterate raccomandazioni del Consiglio Europeo di spostare la pressione fiscale dai fattori produttivi ai consumi e ai beni immobiliari. Allora, io so che su questo e ne abbiamo avuto controprova molte volte, gli ascoltatori la pensano in maniera molte volte diversa, però la linea della Commissione Europea è che si debbano ridurre le tasse sui fattori produttivi, quindi sui lavoratori e su chi dà lavoro, e controbilanciate da un aumento delle tasse su IVA, e questo vuol dire consumi, e mantenendo le tasse sugli immobili. Non voglio tornare però sul tema e sulla polemica. Poi c'è un richiamo anche sulla spesa pubblica italiana in costante crescita, sempre più sbilanciata a favore degli anziani, e sulla quale pesano costi del servizio del debito, cioè gli interessi sul debito, molto maggiori rispetto al resto della zona euro. E il debito resta nel medio-lungo termine la preoccupazione principale di Bruxelles, che dice resta pressante la sfida della sostenibilità del debito. Per rispettare le regole del patto di stabilità sarà necessario un avanzo primario molto elevato, nell'ordine del 4%, e tutti questi elementi rischiano invece di incidere sulla anemica crescita potenziale del paese. E poi aggiunge la Commissione Europea, data la sua centralità nella zona euro, l'Italia è fonte di potenziali ricadute sugli altri stati membri, cioè c'è un rischio sistemico dell'Italia, del debito italiano, mentre la ripresa italiana a sua volta risente delle condizioni esterne. E questo è un fronte. C'è anche un accenno, lo dico perché abbiamo un programma condotto dal nostro Sergio Nava che riguarda proprio la fuga di cervelli, ossia gli italiani giovani ma anche non giovani che vanno a lavorare all'estero, la fuga di cervelli può compromettere la crescita del paese, del capitale umano, perché c'è un capitale umano altamente qualificato, riconosce Bruxelles, che va all'estero e quindi danneggia la competitività del paese. Tra l'altro il numero è cresciuto rapidamente a partire dal 2010 e non è stato compensato da flussi di italiani con pari qualifiche che hanno fatto rientro in patria. Insomma, sarà un caso, ma faccio notare che la fuga dei cervelli riguarda tantissimi settori in questo paese, quasi tutti, ahimè, non riguarda mai la politica. Neanche i giornalisti, potrebbero dire alcuni, e hanno ragione, ma sicuramente la fuga dei cervelli dalla politica all'estero non la vediamo. Comunque, visto che parliamo di politica, parliamo invece di quello che sempre in tema europeo è capitato oggi a Roma, faccia a faccia tra il premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Ricorderete lo scontro che si era registrato il mese scorso proprio tra Juncker, che aveva accusato Renzi, insomma, di e aveva detto: io non sono stupido, capisco benissimo l'atteggiamento italiano, ma non mi va di essere messo in quest'angolo. Renzi aveva risposto, e poi tutto un insieme di botte e risposta. Le attese erano di un incontro abbastanza conciliante. Chiedo alla nostra Elisabetta Fiorito, che l'ha seguito tutto il giorno. Buonasera Elisabetta. Buonasera. In collegamento dalla Camera dei Deputati, se poi si è arrivati, diciamo, a questa così conciliazione. Beh, c'è stato proprio un disgelo, sembra che ci sia il disgelo con l'Unione Europea, i toni erano molto pacati, è sembrato anzi che Matteo Renzi e Jean-Claude Juncker si dessero un po' la palla, no? Si passassero un po' la palla come una squadra. Bisogna poi capire, poi, sottofondo le divergenze comunque rimangono. Sebastiano, questo è ovvio, subito si è parlato di flessibilità e Matteo Renzi ha detto condividiamo la linea della Commissione Europea, anche se in sostanza però siamo sempre per la maggiore flessibilità, quindi la condividiamo però non troppo. E allora ascoltiamo questo passaggio, Elisabetta, proprio sulla flessibilità. Io non so se si passassero la palla o se si passassero il cerino, perché in questo periodo a me sembra più un cerino che una palla, però come tu ricordavi ha detto Renzi hic manebimus optime, questa volta non ci sono errori, è latino, non è inglese, e ha detto condividiamo comunque la linea della Commissione Europea sulla flessibilità. Sulla questione economica noi condividiamo la linea della Commissione sulla flessibilità. Io credo che negli ultimi 10 anni abbia avuto ragione la politica economica degli Stati Uniti, non la politica economica dell'Unione Europea. Ma oggi c'è una novità. La novità è che la nuova Commissione, guidata da Juncker, ha detto 2 cose differenti rispetto al passato. La prima si chiama flessibilità. Il documento ufficiale è quello del 13 gennaio 2015. Noi lo condividiamo, punto. E non chiediamo di cambiarlo. Certo, siamo sempre per più flessibilità, ma per noi il riferimento è ciò che ha scritto nella comunicazione la Commissione il 13 gennaio del 2015. Hic manebimus optimes. Optime. Quindi sul tema della flessibilità per noi fa testo la dichiarazione della Commissione, nient'altro. Pensiamo che l'Italia stia facendo più che i propri compiti a casa, stia dando una dimostrazione di concretezza. Useremo la flessibilità che ci sarà consentita. Pensiamo che non si debba mettere in discussione l'istituto della flessibilità e pensiamo soprattutto che in un clima come quello che stiamo vivendo di crisi internazionale, chi si affidasse alle politiche dell'austerity commetterebbe un errore. Oggi Jean-Claude Juncker ha detto che l'austerity è stupida. Io sottoscrivo e firmo insieme a lui. Sì, il copyright era di Romano Prodi quando definì il patto di stabilità un patto stupido. Il patto di stabilità e crescita. Allora Elisabetta Fiorito resta con noi al traffico, poi sentiamo anche non la risposta ma l'intervento in conferenza del Presidente della Commissione Europea Juncker. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. L'Italia è un grande paese, è uno dei 6 fondatori dell'Europa. Quando si dice Roma, si dice Europa. Sono molto contento di essere qui, Matteo, di essere tuo ospite. Quando si tratta di temi fondamentali, essenziali, tra la Repubblica Italiana e la Commissione, c'è un'ampia identità di vedute. Ci sono più punti di incontro virtuosi tra di noi che dei punti parziali di disaccordo, a volte maldestri. Sì, non si capisce se il maldestro fosse la cattiva interpretazione oppure espressioni maldestre, ma posso dirlo con un francesismo, chi se ne frega, nel senso che Juncker ha detto l'Italia è un grande paese, è importante incontrarci, ci sono più punti di incontro che parziali disaccordi. Poi il riferimento che faceva prima il Presidente del Consiglio a un Juncker che ha definito sciocca l'austerità, Juncker ha detto la Commissione da me presieduta non è un raggruppamento di tecnocrati e burocrati a favore di un'austerità sciocca. La Commissione Europea ha introdotto nel gennaio 2015, come ricordava il Premier, elementi di flessibilità che l'Italia giustamente utilizza in questo momento. Bisogna interpretare nel miglior modo possibile le regole e non perdere di vista una crescita più intensa e duratura. Je vous renvoie à la communication de la Commission de janvier Vi rimando alla comunicazione della Commissione del gennaio 2015. Abbiamo introdotto alcuni elementi di flessibilità che l'Italia giustamente usa in questo momento. La Commissione da me presieduta non è un raggruppamento di tecnocrati e di burocrati. Non è una Commissione che promuove le virtù di un'austerità stupida e cieca. Si tratta certamente di interpretare nel miglior modo possibile le regole, ma anche di non perdere di vista il fatto che è assolutamente necessario che in Europa si ritrovi la via di una crescita più intensa e duratura. Un'Europa che accetta come una fatalità un numero tanto alto di disoccupati non è l'Europa che sogno. Bisogna applicare i testi con saggezza, tenendo sui nostri radar il futuro delle nuove generazioni. Elisabetta Fiorito, nell'entourage, come si dice, del Presidente del Consiglio c'è la soddisfazione, come tu accennavi, c'è l'idea che a questo punto il grosso, perlomeno, delle polemiche con l'Europa sia stato smontato o è una tregua armata? È una tregua armata perché comunque rimangono le divergenze, no? Cioè, questa risposta di Juncker, non siamo una commissione di tecnocrati e burocrati, in realtà è una risposta all'accusa, certo, che aveva fatto il Presidente del Consiglio. E poi c'è il fatto anche che lo stesso Renzi ha detto ci sono state divergenze, soprattutto in tema di banche, e ascoltiamo, ricorda, hai ragione, anche la polemica degli aiuti di Stato, no? Questo è stato un punto fondamentale. Allora, ascoltiamo questo passaggio del Presidente del Consiglio. Consiglio, lì il tema qual è? Quando il governo fece il famoso decreto, ormai infausto, diciamo, per alcuni, di fine novembre per il salvataggio delle quattro banche, popolare di Chieti, Etruria, Ferrara e Marche, quel decreto lì non conteneva, nonostante i tentativi dell'Italia, il salvataggio, come sanno ai meglio obbligazionisti di queste banche, perché la Commissione europea aveva bocciato l'ipotesi che il fondo, che un fondo privato a garanzia dei depositi bancari potesse essere utilizzato. E l'Italia ha detto, ma se è un fondo privato dove sarebbero gli aiuti di Stato? C'è stata, diciamo così, un'interpretazione molto rigida della disciplina del bail-in che stava per entrare e delle normative transitorie applicate, visto che alcuni paesi come Germania, ma anche Francia, la Spagna ha fatto un altro percorso, avevano ampiamente aiutato negli anni passati le loro banche, e su questo erano iniziate le polemiche. Cioè, anche a noi era sembrato obiettivamente che dire che il fondo a garanzia dei depositi, che è un fondo che si pagano le banche, diventano aiuti di Stato, non si capisce perché. E su questo Renzi, come tu ricordavi Elisabetta, ha ribadito che esistono visioni diverse sul tema degli aiuti di Stato alle banche. La questione del piano degli investimenti, 315 miliardi di euro attivati con una leva importante, l'Italia è il secondo paese che ne usufruisce. Noi siamo desiderosi che questo progetto possa continuare. Abbiamo avuto, come è naturale tra gli amici, alcuni elementi di visione diversa. Penso alle questioni delle banche, penso alle questioni di alcune polemiche sugli aiuti di Stato. Abbiamo condiviso un metodo di lavoro per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Da parte mia e da parte nostra il desiderio è quello di dare una mano all'Europa perché l'Europa sia se stessa, cioè un faro di civiltà nel mondo e non un insieme di regole austere e asfittiche. Adesso la palla, Elisabetta Fiorito, si sposta a maggio, quando arriveranno, come ricordavamo prima, invece i rilievi eventuali della Commissione europea su flessibilità e le procedure di infrazione aperte, con sullo sfondo però anche un altro elemento che può creare, non è di carattere strettamente economico, ma in senso lato sì, che può creare tensioni con l'Europa. Mi riferisco ai flussi migratori e quello che sta capitando anche, penso, tra Austria e Grecia. Elisabetta. Infatti un altro punto è stato proprio quello che Renzi ha continuato a dire: noi abbiamo fatto il nostro sui migranti, gli altri non lo fanno, cioè noi abbiamo creato gli hotspot, gli altri mettono le barriere. Sappiamo che questo è un punto molto importante anche a livello economico, perché Renzi potrebbe avere uno sconto sulla famosa flessibilità che l'Europa ancora però non dà. L'altro punto anche sui conti pubblici è quello sul debito, e Renzi ha tenuto a ribadire che il debito, e questa questa dovrebbe essere una notizia se fosse vera, calerà da quest'anno, Sebastiano. Questo sì, è incredibile, ma è vero. Aspettiamo di vedere il consuntivo. Ecco, è sembrato che tutto questo andasse bene, però c'era un grande assente. E questo grande assente era la Germania, era Angela Merkel, era praticamente il paese del rigore, no? Dove questa flessibilità viene mal vista. Vieni a rubare a casa del ladro. Sappiamo benissimo che la Germania è il paese del rigore. Devo dire una cosa, però c'è già stato un incontro a Berlino tra Renzi e Angela Merkel, un incontro che si ripete ogni anno. Questo aveva come obiettivo formale il dirimere, o comunque riappacificare, o comunque gettare acqua sul fuoco su una tensione che, come noi dicemmo subito, mai si era registrata tra Roma e Bruxelles in questi anni, proprio negli anni in cui raccontiamo l'economia, che sono 16. Almeno vorrei fare sentire un passaggio, perché il tema delle infrazioni che l'Europa rischia di darci in alcuni casi c'è tutto. Però Renzi ha rivendicato il fatto che si è passati da 199 procedure di infrazione quando loro arrivarono al governo alle 83 di oggi. La notizia è che per l'Italia siamo al record storico di infrazioni, in senso, diciamo, di riduzione del livello di procedure di infrazione. Credo mercoledì scorso, martedì scorso, la Commissione ha approvato l'ultimo report e dunque l'Italia è passata dalle 119 procedure di infrazione che aveva quando noi siamo andati al governo, 22 febbraio 2014, alle 83 di oggi. Ho sbagliato io, non ha sbagliato per me, era 119, io ho letto 199, chiedo venia, incauda l'errore. Grazie intanto a Elisabetta Fiorito in collegamento con noi da Montecitorio, un ringraziamento come sempre. Vedo molti messaggi, ragazzi, staremo a vedere, vedremo se si riaprirà uno scontro, se una tregua armata, se invece una pace vera e propria, vedremo soprattutto che cosa dirà della nostra manovra finanziaria l'Europa a maggio sulla flessibilità, non cambia niente in questo momento, dicevo grazie Elisabetta Fiorito, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come ogni settimana per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto come sempre per chi dovrà passarlo lavorando.